Oggi il Corriere della Sera ha titolato in questo modo: lo yacht di Briatore arriva in Parlamento, interrogazione di Villari, diritti anche per i ricchi. Lei ha presentato un'interrogazione parlamentare in cui vuole vederci chiaro. Cos'è che non torna nel sequestro dello yacht di Briatore da parte della Guardia di Finanza? Oh, in verità io non entro così nei particolari. La mia domanda era questa. Questa è la domanda che rivolgo all'interrogazione. Per perseguire il fine che l'intervento della Guardia di Finanza si era posto, cioè quello che sappiamo, gli accertamenti, eccetera, sulla quale naturalmente nessuno entra, c'era bisogno di una spettacolarizzazione come quella a cui abbiamo assistito? Questa spettacolarizzazione non lede anche il diritto alla privacy di alcuni cittadini, lasciamo stare come si chiamano? Questa situazione che ho visto poi dopo averla presentata ha avuto un risalto anche su tanti giornali anche fuori dal nostro paese. Sì. Non potrebbe nuocerci? Cioè lei è stato citato, che... lei è stato citato anche da giornali stranieri? No, per carità, non ho questa ambizione. Eh no, appunto, lei mi sta dicendo questo. Dopo aver presentato la mia interrogazione, sì, che la mia intuizione aveva un senso. Ah, ho capito. Perché ho letto, sì, che anche giornali stranieri come il Financial Times hanno pubblicato, sì, alcune considerazioni della serie: attenzione, in Italia queste barche charter, che fanno charter, che girano insomma per il Mediterraneo, attenzione che in Italia si può avere qualche sorpresa della serie, ti sequestrano la barca e ti rovinano la vacanza, perché poi alla fine, voglio dire, l'accertamento fiscale lo si può fare indipendentemente dall'imbarcazione, perché l'accertamento fiscale è sulle persone. Se Pingo Pallino ha evaso l'IVA, l'accisa sulla benzina, quello che sia, deve pagare. Dunque lei mi sta dicendo, però, pur senza entrare nel merito, che in realtà forse si poteva evitare il sequestro dello yacht, questo mi sta dicendo? No, io sto dicendo che si può cercare di conciliare le cose, mi spiego. Una imbarcazione di 60 metri che cammina a 14 miglia, come dicono le cronache, non è che né si nasconde né che se ne scappa. Era attesa in un porto. Sì. Per chi ha un minimo di cognizione di queste cose, si sa che c'è il VHF, si parla col comandante, dove va? Le va alla Spezia, sì, benissimo, si arriva a terra, si prende i documenti della barca, si comunica all'equipaggio che la barca è sotto sequestro, lo si può fare in tanti modi, lo posso dire. Forse non si sarebbe cambiato, ma insomma... E dunque andava fatto in porto. Senta, però no, io mi chiedo... Modo, mi ha sorpreso, devo sì, dire. Cosa l'ha sorpreso? Vedere la stessa giornata in cui tutto questo è accaduto, sì, vedere in televisione, su vari canali, sì, il filmato degli interni dell'imbarcazione, di com'era, sì, di chi non era. Però devo dire, Villari, queste cose accadono sempre. Quando c'è un'operazione della Guardia di Finanza, forse sarà sbagliato, però si vedono spesso le immagini delle incursioni, chiamiamole così, insomma, delle operazioni della Guardia di Finanza, sì, cosa ma non sequestrano. Legate, è diverso, sai, finché si fa una, cioè, voglio dire, noi in questo periodo parliamo molto di privacy, no? Sì. Però finché si fa il filmato, ho capito, del ride notturno per le strade, che sono luoghi pubblici, è un conto, ma se vengono a casa mia, la casa non si fa vedere. Lei dice la no, barca è come dire, una casa, no, ma lei ce l'ha, lei ce l'ha la barca, dire, la barca lei... Mi pongo una domanda, dico, sì, ma quello che cos'è? Che significa? Che senso ha? Chi l'ha dato? Si poteva evitare. No, dico, chi l'ha data la televisione? Tutto sommato io insomma non riesco bene a capire.